vedo gente che si chiede da dove vengo e perché. Ho l'accento svedese polacco, ma sembro danese. Tu devi avere parenti olandesi. Ma è vero che a pranzo non mangi, ma quanto ti manca il caffè. Oggi mi sembra di essere a Montmartre, con quei capelli da Basquiat. Non li assomiglio neanche un po', ma sì un po'. Con questo gelo tu vai ancora in bici, ti farò bere un tè caldo. Sei davvero fredda fredda, tu mi chiami Boreale. E io non so che cosa devo fare per passare una mattina con te e non sembrare distante. Se guardo il piano astrale, in effetti hai ragione su tutto, ma tutto è un traguardo. Così, Boreale. Quando ti ho visto è stato un po' strano. In foto mi sembravi odiosa, in fondo sei anche carina. Mi salvi dalla noia e certo che ieri davanti al bancone sembravi una guardia in borghese. Guardavi un po' male anche me. Sento che il tavolo parla di me,